Ogele gawa garanya. Ego jalo. Ego jalo. Imana kune tibilo wane. Babale ko hipeko. Neka nega bumba wake. Ego jalo.